siamo qui, verso nuove destinazioni, ora siamo qui, chissà domani dove sarò, sarò lì, sempre io ma arricchito delle esperienze che faccio, viaggio dopo viaggio, delle persone conosciute, di qua e di là, degli ostacoli saltati uno dopo l'altro, dell'amore vissuto direttamente su di me. Alla frontiera ci hanno lasciato in mutande, ma poi ci hanno fatto togliere anche quelle. Dai, dici dove hai nascosto la marijuana? Mi dispiace, ma l'abbiamo finita in Italia. La notte che abbiamo trascorso a Venezia, in un ostello che dava diretto sul mare, mentre il sole scendeva sopra Piazza San Marco, donando a noi una stupenda notte di magia. Noi siamo qui sul monte Ucca in Istria, mentre ieri cucemmo sulla piastra il primo pesce, pescato dopo ore trascorse sul molo a ragionar d'amore, mentre il galleggiante proprio non va giù, non va giù. Alla frontiera ci hanno lasciato in mutande, ma poi ci hanno fatto togliere anche quelle. Dai, dici dove hai nascosto la marijuana? Mi dispiace, ma l'abbiamo finita in Italia. La notte che abbiamo trascorso a Venezia, in un ostello che dava diretto sul mare, mentre il sole scendeva sopra Piazza San Marco, donando a noi una stupenda notte di magia. Ci hanno lasciato in mutande, ma poi ci hanno fatto togliere anche quelle. Dai, dici dove hai nascosto la marijuana? Mi dispiace, ma l'abbiamo finita in Italia. La notte che abbiamo trascorso a Venezia, in un ostello che dava diretto sul mare, mentre il sole scendeva sopra Piazza San Marco, donando a noi una stupenda notte di magia.